Noi esprimiamo un profondo disappunto perché riteniamo che questa posizione che ha posto il Comagri sia una battuta d'arresto sulla PAC. Questo perché i testi adottati dal Comitato in pratica garantiranno che miliardi di euro continueranno a essere spesi per una semplice proroga dello status quo, con un pretesto di un greenwashing che passa attraverso quello che chiamano greening. Cos'è il greening? In particolare è una parte di finanziamenti diretti alle aziende agricole, precisamente nella misura del 30%, che era inserita nel primo pilastro della PAC, proprio quella relativa ai finanziamenti diretti, che in passato era limitato, diciamo, alla grandezza, all'estensione delle aziende agricole, quindi di fatto premiava le rendite fondiarie che aveva le aziende più grandi. Con questo 30% si cercava di inserire un sistema che garantisse misure ambientali che andassero un po' a cambiare il paradigma dell'agricoltura europea. Mi riferisco alla rotazione piuttosto che alla diversificazione delle culture, mi riferisco al mantenimento di aree ecologiche all'interno delle aziende agricole. Ora, queste misure che c'erano nella prima proposta sono state cambiate, ad esempio è stato ridotto il limite minimo dell'estensione aziendale per cui queste misure andavano applicate, che era proposto di 3 ettari, è passato a 10 ettari, quindi di fatto l'82% delle aziende agricole europee sarà esente dal greening, e questo mi sembra un dato importante. E poi, senza scendere nello specifico, ci sono tutta un'altra serie di elementi che vanno nella direzione di diminuire fortemente la portata di questa che poteva essere un'occasione importante per rinverdire l'agricoltura europea e renderla più sostenibile.